Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci a un nuovo appuntamento settimanale con l'Adico di Mestre. Un saluto a Carlo Garofolini. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. E allora Carlo, oggi con l'Adico puntiamo l'attenzione su un problema che è drammatico, perché i dati sono sempre in aumento, l'allarme è stato lanciato anche più di un anno fa e se ne continua a parlare, c'è una vera e propria dipendenza sul gioco d'azzardo, no? Sì, è un fenomeno che spesso abbiamo trattato anche qui in occasione dei nostri appuntamenti, dove in varie occasioni abbiamo sollevato l'argomento e soprattutto evidenziata la pericolosità che queste giocate d'azzardo hanno, in particolar modo sulla popolazione e anche sui giovani. E sorprendentemente è emerso come questi dati qua vanno anche in parallelo su quello che è stato un aumento della crisi delle persone che sostanzialmente fanno ricorso anche alle sostanze stupefacenti. Ho capito, ma sembra poi che anche il fatto del giocare di più sia legato alla crisi economica, cioè uno meno soldi ha più tenta la fortuna, giusto? Allora, per capire Francesco un attimino quella che è la reale situazione in Italia, dobbiamo anticipare il fatto che andiamo a commentare alcuni dati che sostanzialmente sono confermati in una relazione annuale consegnata al Parlamento qualche giorno fa, dove praticamente cosa emerge? Emerge come circa il 54% della popolazione italiana, considerata come popolazione italiana un bacino di circa 60 milioni di persone, sostanzialmente ha partecipato a queste forme di gioco d'azzardo, e come gioco d'azzardo significano tutte quelle attività in cui sostanzialmente si va a spendere denaro almeno una volta. E la cosa che sconvolge di più, come poi il 60% di questi introiti sono determinati da una fetta minima che varia circa tra 0,5 e 2,2% di quella popolazione che sostanzialmente è dipendente cronica da queste forme di gioco d'azzardo. È vero che una parte molto importante la fa internet, ma soprattutto la maggior parte delle giocate dipendono dalle famose macchinette, le slot machine, che sostanzialmente le troviamo presenti un po' ovunque. Ah sì, ormai nei bar, tabaccherie tranquillamente. Sì, non esiste sostanzialmente, come ha detto, un esercizio commerciale pubblico che abbia queste macchinette. Tempo fa ci si aspettava degli interventi almeno che dovevano allontanarle da certi luoghi come scuole, centri creativi, ma sostanzialmente tutto è rimasto disatteso. E soprattutto dobbiamo ricordare come la popolazione dei giocatori, o meglio le persone che utilizzano queste macchinette o che sostanzialmente sono dipendenti da questi fenomeni, sono per lo più pensionati, giovani, disoccupati e casalinghe. Attenzione poi soprattutto ai giovani, perché soprattutto tra i 15 e i 19 anni è emerso che il 49,4% degli intervistati abbia giocato. Alla fine di tutti questi dati cosa troviamo? Che tra gli studenti che fanno uso frequente e quasi addirittura quotidiano del gioco, il 35,2% ammette anche di fare uso di stupefacenti. E quindi c'è una correlazione anche in questo, insomma. C'è una correlazione molto importante e soprattutto anche un po' nuova sostanzialmente. Rappresenta probabilmente un disagio psicologico che si cerca di colmare proprio con il gioco, ma anche con l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Sì, esattamente. Secondo me la conclusione di questi dati è proprio quella che hai inquadrato tu, perché se si è sempre affrontato il problema della tossicodipendenza e si è sempre affrontato poco, perché oggi bisogna ricordare sempre ai nostri ascoltatori come il gioco d'azzardo crea dipendenza e da solo non si riesce difficilmente a venirne fuori. Dobbiamo pensare che smettere di giocare al gioco d'azzardo equivale alla stessa difficoltà per un fumatore smettere di fumare. Oggi dobbiamo renderci conto che questi due fenomeni si trovano sostanzialmente legati, e legati certamente da una dimensione critica di quello che è la nostra realtà, che il nostro paese comunque è sempre più coinvolto, soprattutto nei numeri che continuano ad incrementare proprio per effetto anche di questa crisi, di questi disagi, e sicuramente speriamo che tra le tante cose, tra i tanti proclami, ci sia anche qualche intervento serio che il nostro governo possa fare. E speriamo che capiti davvero. Io ringrazio Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, l'appuntamento è fra qualche giorno. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.